L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata dell'altro pianeta in cui parleremo molto di cibi, ovviamente però con la nostra declinazione. Cominceremo con gli insetti per poi proseguire e concludere con il riso OGM. Panacea per tutti i mali o no? Vedremo l'opinione del nostro ospite, anzi della nostra ospite. Intanto cominciamo con il dare il benvenuto a Bartolomeo Griglio, che è presidente dell'Associazione Italiana Veterinari di Medicina Pubblica e coordinatore del gruppo di lavoro sulla sicurezza alimentare della ASL Torino 5 del Piemonte, che ci aiuterà a districarci tra i rischi della produzione e del consumo di insetti. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, il punto della situazione è questo. Dalla fine dello scorso anno l'Unione Europea ha un nuovo regolamento sui novel food che va ad abrogare e semplificare la normativa precedente che risaliva al 97. Intanto le chiediamo, Griglio, che cosa sono questi novel food? Sì, questi novel food sono alimenti di cui non c'è una abitudine consolidata di consumo nei territori che sono oggetto della legislazione europea. Quindi questi novel food non sono solo gli insetti, come abbiamo così molto semplificatamente detto negli ultimi tempi, no? Assolutamente no, questi novel food ovviamente è proprio sulla proposta del Parlamento europeo che ha in parte modificato la proposta della Commissione, sono tutta una serie di altri possibili prodotti alimentari che verranno sviluppati nei prossimi anni, i prodotti alimentari con struttura molecolare primaria o nuova modificata, i prodotti alimentari costituiti a partire da microrganismi, funghi o alghe, cioè quindi carne prodotta attraverso dei substrati cellulari e non direttamente dagli animali, prodotti alimentari realizzati da piante, anche qui coltivati fuori dall'Unione Europea, che non sono tipiche dell'Unione Europea, oppure anche da carni provenienti da animali clonati, prodotti alimentari ottenuti da animali clonati o da loro progenie. Ecco, e poi ci arriveremo anche a questo aspetto. Torniamo però agli insetti per ora. Questo nuovo regolamento si è basato su evidenze scientifiche, ovviamente sulle osservazioni anche però dell'EFSA, che è l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare. Osservazioni che voi avete pubblicato in italiano sul sito del CEIRSA, che è il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Documentazione sulla Sicurezza Alimentare della Regione Piemonte, appunto della ASL Torino 5. Il sito, per chi volesse poi accedere a questa documentazione, è www.ceirsa.org. Cominciamo a vedere quali sono queste raccomandazioni. Sì, diciamo che gli insetti non sono una novità per molti paesi del mondo, nel senso nei paesi asiatici, nel continente africano, il consumo di insetti è una delle pratiche che l'uomo da sempre utilizza. In Europa questo tipo di attività è venuta alla luce da qualche anno, diciamo una decina d'anni, proprio per i flussi migratori. Quindi in alcuni paesi europei si è cominciato ad affrontare la tematica degli insetti. Questa tematica è diventata ancora più importante alla luce dell'esigenza di food security, cioè dell'esigenza di produrre alimenti per sanare un numero sempre più elevato di persone, di abitanti. E quindi anche l'Europa ha dovuto porsi il problema. Come dicevamo, in alcuni paesi si sono cominciati delle sperimentazioni di allevamento e di produzione e quindi oggi abbiamo un regolamento che consente a tutti i paesi europei di avere la stessa procedura per approvare questi alimenti. Gli insetti consentono una serie di vantaggi, dal parere EFSA si evince, che riguardano il discorso di produzione e di recupero di proteine nobili, grassi e anche altre sostanze che possono servire per l'alimentazione umana, ma anche per altri settori, alimentazione umana, alimentazione animale e anche ad esempio cosmetica, attraverso l'utilizzo di sostanze che oggi non si riescono ad utilizzare nel processo produttivo. Attualmente le linee di indirizzo che vengono date, il trend, le buone pratiche che vengono utilizzate sono quelle regolate da un sistema volontario di una piattaforma internazionale per chi alleva insetti per alimentazione umana o animale, che prevedono che non siano utilizzati né scarti né liquami di produzione, ma solo alimenti pre-utilizzo umano. Quindi al momento attuale le aziende che producono insetti in Europa, ce ne sono già alcune in Belgio, in Olanda, in Inghilterra, possono utilizzare o utilizzano, aderendo a questo standard, esclusivamente ad esempio i ritagli delle verdure che vengono pulite prima di essere utilizzate dall'uomo prima di essere messe sui banchi vendita. In alcuni casi queste verdure vengono, come dire, mondate dalle parti più sporche, dalle parti meno belle, oppure dalle parti più dure che non sono consumabili dall'uomo. Tutte queste parti che oggi sono oggetto di scarto in gran parte dei posti, in realtà potrebbero essere la base per produrre insetti, per essere il substrato per allevare questi insetti. Quindi non devono essere degli scarti? Al momento no. La linea che è stata data non devono essere degli scarti post-produzione. E quali insetti possono essere allevati? Sì, ci sono già tutta una serie di insetti, in realtà sono moltissime le specie di insetti, tendenzialmente sono alcuni adulti, tipo cavallette, alcune specie di grillo, e ci sono anche tutta una serie di invece forme larvali. Quindi sono ad esempio alcuni tipi di larve di mosca che sono estremamente produttive e che sono in grado di trasformare sostanze che, come dicevamo prima, non sono direttamente consumabili né dall'uomo né dagli animali in proteine, grassi, oli che diventano invece utili per l'alimentazione dell'uomo e degli animali. Ok, quindi definita anche questa categoria, abbiamo detto quali animali sono, come li nutriamo, poi vedo quali sono i processi di produzione più comuni, qui si intende come poi dopo li macelliamo? Non lo so, sì. Fa un po' impressione. Come questi animali devono essere allevati? Devono diventare cibo. Sì, ci sono buone pratiche di allevamento perché, come abbiamo detto, alcuni di questi animali devono essere allevati fino alla fase dell'insetto adulto. In altri casi invece devono essere, come dire, macellati ad un livello di larva. E anche in questo caso qui l'EFSA e gli esperti che sono stati coinvolti nel panel di studio hanno evidenziato alcune metodiche di macellazione di questi insetti, che possono essere l'utilizzo del caldo, l'utilizzo del freddo, quindi ad esempio dei sistemi a vapore che rendono rapidissima la morte di questi animali, dei sistemi che utilizzano il freddo, quindi dei sistemi di congelamento rapido, che permettono appunto da un lato di evitare sofferenze ingiustificate per questi insetti e dall'altra parte di mantenere elevato il livello nutritivo delle sostanze che da loro poi possono essere derivate. Qui criticità possono essere trovate nel senso quali potrebbero essere i problemi che uno incontra in questa fase? I problemi che si incontra in questa fase potrebbero essere ad esempio dei trattamenti che non sono sufficienti a inattivare possibili microrganismi patogeni che possono comunque derivare. In questa fase di allevamento, questo è ovviamente legato molto alla scelta del substrato, potrebbero esserci delle sostanze chimiche che possono andare a contaminare. Alla fine, dallo studio EFSA, ma anche da altri studi che sono già stati fatti, alcuni anche nel nostro paese, dove sono state prese in considerazione tutta la letteratura internazionale, si evince che i rischi collegati a questi insetti, agli alimenti derivanti da questi insetti, di fatto sono sovrapponibili o addirittura leggermente inferiori rispetto ai rischi che oggi corriamo con gli alimenti tradizionali. A quel punto, una volta diciamo macellati, che anche se applicato questo termine a un insetto fa un po' strano, comunque, dobbiamo stoccarli e poi pensare alla distribuzione. E qui dobbiamo, come dire, in qualche modo sfatare un possibile mito che si sta creando, ed è quello di vedere persone che masticano cavallette oppure piatti preparati con le zampe. Tra l'altro citiamo quel video orribile sul sito del Parlamento Europeo dove si vedono persone masticare cavallette. Esatto, esattamente. Quindi anche la peggior pubblicità che potessero fare, sì. Una pubblicità che rischia di creare delle resistenze molto forti da parte del cittadino medio che dice: ma io mai e poi mai mangerò una cavalletta, mangerò un buco o uno scorpione, insomma, e quindi effettivamente forse questa poteva essere evitata, essere più soft, tenuto conto che già nelle esperienze che sono in altri paesi, in Sudafrica, in Israele, in altri paesi dove questa pratica ha già iniziato ad essere sviluppata negli Stati Uniti e dove ci sono aziende produttive che sono già sul mercato e raddoppiano il loro fatturato di anno in anno, perché chiaramente la materia prima del substrato ha un bassissimo costo e dall'altra parte la possibilità di commercializzare proteine, grassi, come dicevamo, sostanze alimentari anche nobili e anche comunque di buona caratteristica rappresenta un business non indifferente. Quindi dicevamo, bisogna sfatare un po' questo mito che l'insetto debba essere mangiato tal quale. In realtà oggi il mercato principale, esclusi dicevamo i paesi in cui per tradizione si consumano questi insetti, spesso non sono neanche allevati ma sono cacciati, sono raccolti nel territorio, nei paesi dove invece questo sta diventando un'attività di tipo, come dire, aziendale, di tipo strutturato, la produzione principale è la produzione di appunto elementi alimentari, quindi proteine, grassi, oli e chitosani. I chitosani sono delle sostanze che vengono utilizzate sia dall'industria cosmetica sia dall'industria alimentare, le trovate ad esempio in alcuni prodotti dietetici, che oggi vengono ricavati dal carapace, dalla chitina dei crostacei. Bene, si è visto, si dimostra che la produzione di questi chitosani fatta dagli insetti è di qualità superiore e tendenzialmente a un costo inferiore per il consumatore finale. Quindi di fatto in queste aziende si producono proteine che poi possono essere aggregate in modo diverso e quindi queste proteine non saranno diverse da quella che oggi chiamiamo la bistecca ricostituita oppure dalla produzione di nuovi alimenti utilizzando i substrati cellulari. È una nuova possibilità, una nuova opportunità. Questa opportunità vale sia per l'alimentazione umana e quindi troveremo delle polpette, troveremo delle forme di tipo Würstel, troveremo altri tipi di alimento che hanno delle forme normali a quelle a cui noi siamo abituati, ma che invece di essere prodotti da proteine derivanti dal bovino, dal suino, dal pollo o dal pesce, avranno proteine che derivano dal bruco, dal grillo, dalla cavalletta. Questo è lo scenario che si preannuncia. Sì, sul nostro sito abbiamo provato a pubblicare, ma abbiamo messo anche i link ad alcune aziende che hanno già un sito internet in altri paesi in cui si possono vedere i tipi di prodotto che sono in vendita e in alcuni casi è irriconoscibile, indistinguibile il prodotto da un normale prodotto in commercio, lavorato, insomma, trasformato. Mm. Allora, come per qualunque altro prodotto ci sono alcuni rischi di allergicità, sì. Ho visto che si indica ad esempio gli individui sensibili ai crostacei possono essere allergici agli insetti o ai loro prodotti, no? Quindi anche su questo bisognerà fare attenzione. Anche su questo bisognerà fare attenzione, la discussione è legata ovviamente anche in questo caso, così come per gli altri novel food, è ancora aperto il discorso di applicazione dell'etichettatura, cioè come farà il consumatore a essere informato del fatto che questo alimento deriva non da un crostaceo, non da un pesce, parliamo ad esempio dei chitosani, ma deriva dalla produzione di insetti. E su questo c'è un dibattito aperto, che è il dibattito aperto anche su altre tipologie di prodotto. Pensiamo agli alimenti clonati. Mm-hmm. Gli alimenti clonati, certo. Dicevamo, probabilmente sarà un'apertura che l'Europa in qualche modo concede agli Stati Uniti nell'ambito di questo nuovo trattato di scambio. Il TTIP, diciamo, per ricordare. TTIP, mm. Esatto, il TTIP. E la discussione aperta è proprio sulle modalità con cui è possibile identificare questi prodotti da parte del consumatore, perché spesso e volentieri questi prodotti sono assolutamente indistinguibili rispetto ai prodotti tradizionali. Nel caso degli insetti questo non avviene, perché le proteine sono facilmente distinguibili attraverso dei sistemi abbastanza semplici di analisi. Allora, grazie molte a Bartolomeo Griglio per queste dettagliate spiegazioni. Ci risentiamo presto, quando magari ricapiterà di tornare su questi argomenti. Grazie Laura per l'invito e buongiorno a tutti. Facciamo una pausa e tra poco torniamo con il Golden Rice. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24. La passione si sente anche in viaggio. Digital Radio Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. L'altro pianeta. Allora, eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati da Laura Bettini. Parliamo adesso di Golden Rice, di riso dorato. Riso geneticamente ingegnerizzato per produrre beta-carotene, che è un precursore per la sintesi della vitamina A, di cui sono carenti molte popolazioni, principalmente in Asia. Ciclicamente si parla di questo riso e si accusano associazioni come Greenpeace di crimini contro l'umanità nel criticare il Golden Rice e ostacolarne la coltivazione. Allora, con noi oggi per fare chiarezza sulla posizione di Greenpeace c'è Federica Ferrario, responsabile agricoltura sostenibile. Benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora, appunto, facciamo un po' di chiarezza. Sì. Periodicamente si sente, torna in auge questo famoso Golden Rice, appunto così chiamato Golden Rice per questo colore rossiccio che ha preso e che, per il quale è una delle cose che non si riesce a spiegare. Nella realtà stiamo parlando di un qualcosa che nella pratica non esiste, che non è mai stato commercializzato. Stiamo parlando di un progetto sperimentale, tra l'altro una sperimentazione che va avanti da 20 anni, con un utilizzo, come potete immaginare, enorme, parliamo di milioni di dollari di investimento, per un prodotto che ancora non è riuscito a arrivare comunque a essere commercializzato, per il semplice fatto che ancora non si conosce, non lo si sa spiegare. Ancora, innanzitutto, ci sono problemi di rese, le raccolti, la stessa agenzia che se ne occupa e che sta studiando la sperimentazione comunica che comunque le rese sono inferiori rispetto alla varietà tradizionale, ma pur, diciamo così, l'aspetto centrale è che ancora non si sa con certezza se, appunto, nutrendosi con questo riso, chi soffre di carenza o deficienza di vitamina A riesce effettivamente a avere un giovamento e quindi a aumentare la presenza della vitamina. Quindi stiamo parlando in realtà di una funzione, di una falsa soluzione. Esistono già sistemi e metodi per andare a combattere, a lavorare per appunto risolvere il problema della deficienza di vitamina, che sono già sistemi attivi, parliamo di integratori alimentari, ma parliamo poi in realtà di quello che è la vera soluzione. Quello che serve in queste zone è una dieta che sia più biodiversa, in grado di fornire i nutrienti necessari alla sopravvivenza delle persone. Sì, cioè, no, perché io volevo dire che se uno va sul sito proprio Golden Rice, cioè quello diciamo ufficiale, tra le altre risposte alle domande frequenti c'è anche questa che riguarda proprio la carenza di vitamina A, e c'è la domanda: risolve la questione? E la risposta è, diciamo onestamente, tutto sommato, aiuta al massimo a risolvere la questione. Non è la bacchetta magica che cambierà la vita delle persone. Aiuterebbe, condizionale, perché ripeto, ancora adesso non si sa. Esatto, diciamo, gli studi infatti dicono che potrebbe aiutare. E quindi a maggior ragione essere accusati Greenpeace, come qualsiasi altro ente, associazione o persona che sottolinea quali sono i rischi e le problematiche legate agli OGM, accusare queste associazioni di crimine contro l'umanità, come spesso si sente dire, è quantomeno vergognoso, oltre ad essere completamente falso e assurdo. I problemi sono decisamente altri, quindi è necessario senz'altro investire in ricerca in agricoltura, ma bisogna investire in una ricerca che abbia senso, che sia sensata e che vada nella direzione giusta. Greenpeace in che tipo di ricerca in agricoltura investirebbe? Perché non vorrei che foste oscurantisti, diciamo così, che poi ci dobbiamo fare come si faceva 100 anni fa. Assolutamente no. Bisogna investire moltissimo in ricerca, bisogna investire, e diciamo così, lo vediamo ogni giorno di più con quello che sta succedendo a livello mondiale, in particolare legato ai cambiamenti climatici, serve investire in biodiversità e varietà il più possibile biodiverse che si adattino alle realtà locali. In un mondo con un clima che cambia, la soluzione non è una monocultura che funzioni solo come uno schemettino quadrato con tutti i valori precisi, le temperature precise, la situazione assolutamente invariabile. In un mondo con un clima che cambia, quello che è la chiave per il successo e quindi poi per andare a nutrire in maniera sostenibile una popolazione che cresce è differenziare il più possibile la produzione agricola, andando a unire sia il sapere e utilizzare il più possibile le varietà locali che si conoscono, e unire questo sapere contadino alla ricerca scientifica più elaborata. Faccio un esempio per essere più preciso e non parlare a vanvera. Esiste una tecnica che è legata alla conoscenza appunto del DNA, che si chiama MAS, selezione assistita da marcatore, che appunto sfrutta la conoscenza che adesso abbiamo del DNA dei vegetali per andare a capire quali sono le caratteristiche migliori che ci interessano le diverse varietà di una cultura, e quindi indirizzare a fare degli incroci più utili per la situazione o il contesto geografico dove dobbiamo poi andare a coltivare queste culture. Così si ottiene una pianta che non è un OGM, quindi senza tutti i problemi e i rischi legati agli OGM, ma che è più adatta a soddisfare i bisogni locali delle comunità dove poi viene coltivata. il risultato come tecnologia aperta, quindi senza nessun tipo di brevetto, ma dando il più possibile la conoscenza e distribuendo il sapere fra chi ne ha bisogno. Questa è la soluzione per il futuro, perché anche in Asia, ad esempio nelle Filippine si è cercato già più volte di avere campi sperimentali di Golden Rice, tra l'altro sono stati gli stessi agricoltori nelle Filippine a osteggiare il semplice campo sperimentale. È una popolazione, è una zona dove stanno sempre di più soffrendo quelli che sono i rischi legati, il problema legato ai cambiamenti climatici, pensiamo ai tifoni, quindi quello che serve è veramente lavorare su varietà che siano in grado di avere una resilienza migliore ai cambiamenti climatici, e in quale direzione dobbiamo andare. E non possiamo pensare di poterlo ottenere, ripeto, con una monocultura che va a deprivare il suolo di sostanze nutritive che necessitano di forti investimenti anche dal punto di vista di risorse energetiche e di riduzione fossili, di un utilizzo di pesticidi o comunque sostanze chimiche elevate, non è questa la soluzione, a maggior ragione se poi sono anche brevettate. Tra l'altro sì, appunto, questa è proprio la parte che ricordavi giustamente del cambiamento climatico, significa anche ragionare sul futuro. E poi sempre per fare chiarezza, quando parliamo di OGM, perché il Golden Rice è un OGM, cerchiamo di essere molto chiari e precisi su quello che significa. Dopo 20 anni di commercializzazione dei primi OGM, perché ormai è successo 20 anni fa negli Stati Uniti con la prima soia Roundup Ready della Monsanto, stiamo parlando dopo 20 anni principalmente di 4 colture, soia, mais, cotone e colza, e come caratteristiche hanno principalmente quella di essere resistenti a una sostanza chimica, a un erbicida, spesso prodotto dalla stessa azienda che poi va a brevettare i semi OGM. Di questo stiamo parlando, quindi non di un qualcosa che va ad adattarsi a venire incontro alle esigenze delle persone, delle comunità locali, ma di una cultura che è stata progettata, proprio pensata per essere monocultura nel nord del mondo, con l'utilizzo di grossi anche apporti energetici per poter portare a termine queste coltivazioni, e appunto, ripeto, come caratteristica principale quella di essere resistente a un erbicida. Allora, questo non è la strada per il futuro o per la sovranità alimentare. Ma siete decisamente contro qualunque tipo di OGM, o stiamo parlando di quel tipo di OGM che richiede quell'erbicida? Cioè, se ci fosse un OGM resistente, non so, a un cambiamento climatico, andrebbe bene, sarebbe accettabile, o comunque pensi che sarebbe sempre meglio la varietà, diciamo, naturale diventata modificata nei secoli dall'uomo e dalla natura? Allora, faccio una premessa. Quando parliamo di OGM, OGM è solo una delle tecnologie, una delle tecniche che stanno sotto all'ombrello molto più vasto delle biotecnologie, ovvero un mondo veramente vasto. La biotecnologia sono le biotecnologie legate alla vita, anche il lievito di birra è una biotecnologia in senso lato. L'ingegneria genetica, e quindi appunto questo tipo di tecnologia che si usa per fare OGM, è di per sé intrinseca portatrice di rischi e di problematiche e rischi che non siamo neanche in grado di ipotizzare, non solo di controllare. Mentre invece andando a investire in ricerca, ripeto, sfruttando sempre di più la conoscenza anche che abbiamo del DNA e delle piante, andare a fare ricerca su tecniche come la MAS, che ripeto ti permette di avere poi incroci normali, quindi non OGM, ti porta verso soluzioni che sono già praticate a livello mondiale. Abbiamo già strumenti che vengono coltivati a livello mondiale, ottenuti con la tecnologia MAS, che riescono a sopprimere determinati problemi. Addirittura abbiamo un riso in Asia che è in grado di resistere a lunghi periodi di inondazioni, fino a 2 settimane di inondazioni. Sono colture ottenute con questa tecnologia, ripeto, la selezione assistita da marcatori, e sono già utilizzate nella realtà dagli agricoltori, quindi portano già soluzione a problemi reali. Un'altra discussione che si sente in questo ultimo periodo è su queste nuove tecniche sempre legate all'ingegneria genetica. Sentiamo parlare di gene editing, queste parole. Anche in Italia ne abbiamo sentito recentemente. Abbiamo sentito anche di un grosso investimento del Ministero delle Politiche Agricole, futuro Ministero, com'è che si chiamerà? Dell'agroalimentare. Sì. Attenzione, perché sono, se da un lato potrebbero essere un pochino più precise rispetto, diciamo così, ai classici OGM che conosciamo finora nel posizionamento di geni e quindi nell'andare a interferire, a intervenire sul DNA di una pianta ospite, in realtà hanno le stesse rischi, le stesse caratteristiche degli OGM. Quindi stiamo parlando di un cavallo di Troia enorme che ci sta bussando alla porta e quindi bisogna stare attenti a non aprire. Sì, sempre con quelle accortezze di prima, cioè nel senso stiamo attenti a non aprire, o meglio, quando apriamo chiediamo chi è. Il punto è proprio questo, prima di dire sì o no dobbiamo conoscere e al momento non siamo in grado di fare una valutazione precisa. Dico questo perché una delle ipotesi che stiamo sentendo negli ultimi mesi e ancora di più negli ultimi giorni è quello di volerli considerare come tecnologie sicuri di per sé e quindi non farle defluire sotto la normativa europea sul novel food, quindi in particolare sulle direttive legate agli OGM, e quindi farle, tenerle, diciamo così, al di fuori dal cappello di sicurezza che l'Europa si è costruita. Ora, l'idea di lasciare tutto questo nuovo pacchetto di nuove tecniche legate alle biotecnologie al di fuori di una normativa che ci permette una seria valutazione dei rischi e di una tracciabilità di questi prodotti, lo trovo veramente, visto che stiamo parlando di cibo, tirarsi la zappa sui piedi da soli. Sì, tra l'altro in un paese come il nostro, appunto, che si vanta della sua tradizione, dell'agroalimentare, del DOP, dell'IGP, di tutte queste belle cose, poi dopo così lascia perplessi. Allora, io ringrazio davvero Federica Ferrario, responsabile agricoltura sostenibile di Greenpeace, per essere stata con noi. Così siamo partiti dal Golden Rice e poi abbiamo dato un po' tutta la vostra visione del settore. Credo che sia stato un approfondimento utile un po' per tutti. Grazie mille per lo spazio e per l'attenzione al problema. Grazie a tutti per l'ascolto, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora.